c'è acqua. No, qui l'acqua non c'è. E dove siamo? Qualcuno l'ha chiamato lo settore d'acqua. Una panchina, una sedia, ma che posto è questo? Te l'ho detto, siamo nel settore d'acqua. Ma tu da dove vieni? Dall'acqua, dalla quinta. Hai incontrato qualcuno? No. Sei stato sempre solo nell'acqua. Sì, ma perché qui non c'è acqua? Tu come l'hai trovato questo posto? Non l'ho trovato, ci sono capitato così, non so come. Mai comunque me lo sarei immaginato così. Sono morto in un incidente stradale. Ero stato a una cena a cui neanche volevo andare. Per tornare a casa un mio conoscente mi ha dato un passaggio. Abbiamo fatto un incidente e ci siamo ritrovati qui, sdraiati nel settore K. Appena arrivati qui, l'ultima cosa a cui avremmo pensato era di essere morti. Decio! Stai bene? Insomma. No, tranquillo, tranquillo. L'importante in questi casi è non battere la testa. Battuto la testa? No, fortunatamente no. La macchina dov'è? E dov'è? La macchina, qui c'è il lago, sta prima del lago. Ma che lago è questo? Questo chiama qualcuno. Aiuto! No, per forza. Aiuto! Ma per forza. Oh, aiuto! Porca miseria, che è successo? Abbiamo un incidente della macchina. Ma tu, la mia scuola. Questo è il lago di... il lago di Marsignac le Plombe. No, amico, aspetta. Il lago di... no, ce lo so, potete la dire. Aspetta, questo qua è il lago di Plosunsi. Ma no, amico, questo è il lago di... Thank you. Senti, ma si non basta. C'è una discriminante anche qui un maschilismo strisciante. E adesso che sono arrivati questi due, la situazione è ancora peggiorata. Era un dramma mentale. La sensazione era quella di essere dimenticati. disfunzione meccanica, vengono abbandonate nello spazio. Eravamo un errore, una svista. Una svista? Io sono stato per non so quanto tempo da solo nell'acqua. A voi è andata bene, voi almeno stavate insieme. Comunque, piano piano, Beppe e io iniziamo a diventare parte integrante del settore carico. Te lo sconsiglio, ti fa male. Io per dirti ho dovuto smettere. No, è che devo controllare delle cosette. Qui tutti lo conoscono quasi a memoria e tutti ne hanno subito le conseguenze, almeno un po'. Sì, sono parole, non è che si può impazzire con le parole. Te ne accorgerai. Sento che il vostro arrivo ha portato delle energie negative. Senti questo. Beh, forse è Vesha del portaschiena, non lo so, controlla, dammi i dati. No, io invece penso proprio che sei qui. Se non te ne vai ti do una cagnata. Si vede che sei arrivato da poco, ti sei portato dietro molta violenza. Io ti ho capito, tu nella vita probabilmente somigliavi a quelle riviste che parlano di moda, di diete, di politica, di... parlano di tutto e perciò non parlano di niente. E probabilmente hai anche fatto il yoga. Thank you. finta che è vita, facciamo finta che ci frega, impegni, tante cose da fare. Fretta, stress! Stressatissimo! Facciamo finta, vita, facciamo finta! Ti do via! Dammi adesso esco, vengo di là e facciamo finta! Sei pronto? Dammi. Ti do via! Va via! A casa! Questa è fretta! Questa è vita! Arrigo vita, ho detto vita, impegni, fretta, cose da fare! Cose da fare! Che facciamo finta che non sacco di cose da fare! Dammi via! Oddio mio, che mi sono macciato alimentare per andare alle cause! Ma signora, fate con la mia segretaria, oggi sono impegnatissimo! Andare dall'oculista, però contemporaneamente devo accompagnare mia nonna all'aeroporto. Nino, per favore, io sono da fare, mia nonna è morta, dai! Vaffanculo! Senti, dico vita, non morta, sempre morta, tutto morta, Nino! Ma Nino, tua nonna è morta! Arrigo vita! Vita, facciamo vita, impegni, fretta, cose da fare, Nino, mi dici morta, sempre tutto quanto morta, basta, Nino, non ce la faccio più a arrivare. Nino, ci vieni? Ci tengo tantissimo! Vai, Nino! Va! Oddio mio, che sono in casa, non arriva, non è possibile, mi si è ammalata la segretaria. Che penso che mi ho trovato adesso, mi sei tutta la settimana! Un minuto, che devo rubare. Ti devo rubare un minuto preziosissimo, allora. Devo accompagnare mia nonna all'aeroporto. Io! Ecco, nonna! Ho visto in piscina! Oh! Scusa, ci siamo impegnatissimi. No, ma io sono impegnatissima, anzi non mi posso dare letto, a sì che mi aspetta sotto casa, ho un sacco di cose da fare. Sì, ma non lo fai per niente bene, eh? Ah, sì. È vero. fino a 86.400. Quanti contato? No, contando proprio fino a 86.400, l'acquetta si abbassa di 10 centimetri. Ma dai! L'acquetta! E poi si va rialzando. No. Si abbassa e si rialza! Come la marea! Oh, no. Sapete cosa sono 86.400? No, no. Secondi. Sì. E che sono? 86.400 secondi. Sono un giorno. Sono un giorno. La quinta si abbassa e si rialza. Io so quanti giorni passano, metto i segnetti. La quinta si abbassa e si rialza. E qui ci sono un sacco di cosette che bisogna capire. E ho infatti deciso di indire qui, in piazza, perché mi pare che sia una piazza questa, delle sedute di autocoscienza, tutti i giorni verso mezzogiorno. E come a mezzogiorno? Quando la quinta sta a metà. Questa è la prima seduta di autocoscienza. Ognuno può prendere la parola alzando la mano. Il tema di oggi è: dove siamo? Dove andiamo? C'è un senso? Ci stanno prendendo in giro? E se la quinta si abbassa e si alza, Dio esiste? Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Se la marea si alza e si abbassa, significa semplicemente che la marea prima si alza e poi si abbassa. Sì. Benissimo, altri interventi? No. E così iniziarono queste sedute di autocoscienza. Erano una cosa un po' generica, chi siamo, che facciamo, dove andiamo. Si parlava di tutto e perciò erano lì. Il tema di oggi è il vocabolario. Ah. Come mai c'è? È un caso o c'è un senso dietro? Lo so. Senso. Se vi è un vocabolario significa semplicemente che vi è un vocabolario, ma tendente a nel settore. Dai. Benissimo, altri interventi? No. Il tema di oggi è come mai noi qui, tutti insieme, proprio noi. Voglio dire, che cosa ci accomuna, No! Nino. Lo so. Allora, ci accomuna una morte stupida. Noi siamo morti tutti quanti di morte stupida. Ci siamo morti intelligenti adesso. Cioè, in questo settore proprio sono capitate tutte le persone che sono morte di morte stupida. Poi, che ne so, in un altro settore ci saranno i suonatori di oboe, per dire, no? Cioè, differenziato. Scusami, mi viene una curiosità. In che senso morti stupide? Ecco, per esempio, voi due, no? Voi due avete fatto un incidente stradale. Cos'è andare a sbattere contro te? Cos'è un palo? Contro un albero, ecco, bellissimo. Veramente una morte del cazzo! No! Per dire che nessuno di noi è morto per salvare il bambino in guerra, per salvare la mamma. No, morti stupidi! Scusa, ma tu come sei morto? Io avevo come hobby quello di lanciarmi dei ponti con l'elastico. Quello di giorno l'elastico si è spezzato. molto più tutto aveva improvvisamente un senso. Avevamo una scadenza e dovevamo aspettare. Dovevamo aspettare un anno e una settimana, cioè 372 maree. Qualcuno insomma doveva venire, darci altre indicazioni. Del settore K non si parlava tanto. Io tutto sommato non capisco che cosa ci viene a fare questo verificatore. Io qui non ci sto così male. Io gli altri morti non li voglio incontrare. La mia famiglia non la voglio incontrare, preferisco voi. Non ci voglio andare con il verificatore. E diglielo. A chi? Al verificatore. Quando arriva tu gli dici che non te ne vuoi andare. Che stimato, ma poi si fa un viaggio apposta. Arriva probabilmente con un bigliettino per ognuno di noi. Ma quali bigliettini? Ma che è un postino il verificatore? Sicuramente devi calcolare che qui ci saranno le morti. No, non capisco proprio che devo calcolare. Insomma, si va via. Io qui ci sto un sacco di tempo. Ma talmente tanto tempo non so neanche cosa significhi andare via. A me dove mi appoggio non mi sta bene. Mi ci butto. Poi io mi adatto. Chissà se andiamo a finire nello stesso posto. Guarda, non penso, i morti sono veramente tanti, non ci vedremo mai più. O forse ci incontreremo un giorno, per caso, non credo. Comunque io vorrei entrare nella banda. Ma guarda, ci sarà la banda. Caro verificatore. Carissimo. Gentile e simio e virtuoso verificatore, non si pensi che queste righe siano scritte a mia scopa, no? Quando arriverà il verificatore non so cosa chiede, non so cosa voglio, so cosa mi manca della vita. A me della vita mancano le cose brutte, mi mancano i miei difetti, il mio egoismo. Qui essere egoista non serve. Manca quando mi arrabbiavo senza motivo. Ero libera di questo. Mi arrabbiavo, così, per niente. Gli altri mi perdonavano. Qui arrabbiarsi non serve a niente. Mi mancano le mie paure. La paura di volare, la paura di nuotare, la paura di fare le cose. Io qui non ho mai paura. Settimana prima dell'arrivo del verificatore, nel settore K sbarcò Simone. Come sbarcò? Dalla quinta o direttamente qua? No, no, direttamente qua, era un morto nuovo, nuovo di zecca. Lo abbiamo trovato là. Vai, io sono proprio nel polizio, non è successo niente. Lascia! lettura per tutti, ma quello che ti ha detto quell'idiota di Arrigo è vero. Tu sei morto. È proprio morto, morto, no, visto che sei qui seduto zitto e mi devi ascoltare, caro Simone. Questa è una vita dopo. Una vita a tratti noiosa. Ma tu sei stato fortunato. Sì. È stato fortunato lui. È stato fortunato. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Tra una settimana arriverà il verificatore. Ottima persona. No! Non mi venire a dire che non è un'ottima persona se non ti ammazzo! E come faccio? Comunque lui arriverà qui e dopo un severo, un minuto, giudizio ci darà tutti una destinazione. Hai capito? Fortunato lui! Non come certa gente che sta qui per anni, soffre! No, lui arriva e tu non ti dimori per il verificatore! Sono peraltro molto felice di lasciare giudizio in discussione. Noi infatti saremo con ogni probabilità sottoposti a una forma di giudizio. Ma no, saremo sottoposti a una forma di giudizio. Come va? No, no, no, noi saremo sottoposti al giudizio per eccellenza. E saremo giudicati su cose gravissime, cose che io temo proprio per quelle persone che saranno giudicate su delle cose gravi, tipo la bestemmia. Io non ho mai bestemmiato, sono tranquillo. Tu hai mai bestemmiato? Sì. Sono cazzi tuoi! Io temo per te! Io temo per te! La bestemmia ogni tanto sì. Cosa dici? Cosa stai dicendo? La bestemmia ogni tanto sì. Ma non è vero! La bestemmia non si dice basta! Non si dice gravissima la bestemmia, è gravissima! Oh, senso cosa? Non so se ti è mai capitato per esempio di svegliarti. Una bella mattina tu ti svegli e cammini a piedi nudi per casa. E c'è quella bella luce. E sei pieno di buoni propositi anche. E magari con un vaso di vino della colazione. Poi c'è il pirone. Mi ferma forte, quindi altri 10 centimetri, quindi una volta, no? E tu cammini col vassoietto, buoni propositi, sogni, e metti il piede sul pirone! Ti sembra che si proprio il rumore delle ossa che si frantumano! E lì un respiro e poi un bestemmione! Ma cosa dici? Ma non è vero! Comunque tu ringrazi! Ringrazio, anzi ti metto una pozza! Amanti, viaggi, l'Africa! Sono anni che io sto male. A me non me ne frega niente del esagerare la piedi o in barca? No, no, no, si sta zitti e si guarda l'infinito, va bene? Oh! L'ho sentito un rumorino. Io non ho capito se è arrivato solo o... Poi quelle mie riunioni assumono tutt'altro significato, diventano importantissime. niente. Non ci credevo proprio. Poi è successo qualcosa. Ma non è che... Io a questo predicatore gli volevo guardare dei posti. Che? Dei posti. Perché dei posti? Ma mi piace la parola. Insomma, Peppe, voi me ne avete parlato, io ci ho spiegato e ci sono rimasto male. Non c'è nulla che ci accomuni, nulla che ci unisca, io proprio non capisco che senso ha stare qui, starci insieme, proprio. Anche il vocabolario. Non è un caso che ce l'abbiamo lasciato, perché noi siamo come le parole di questo vocabolario, stupidamente ordinate in successione. La nostra convivenza qui è stronza come stronzo l'alfabeto. Ma l'ordine alfabetico, ma ci avete mai pensato? L'ordine alfabetico? Come fa a chiamarsi ordine un sistema che costringe delle parole che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra a stare una vicino all'altra per sempre? Perché? Perché l'ordine è alfabetico. E allora si passa, non so, da spirito a spiritoso, da album a albume, da petalo a petardo, da gulag a gulash. La verità è che il vocabolario cerca disperatamente di afferrare la realtà e non riesce nemmeno a sfiorarla. Come si fa a afferrare la realtà? Dando delle definizioni. Ogni parola ha una definizione, per esempio la definizione di amore, dedizione appassionata ed esclusiva. Ma che vuol dire? Ma che c'entra con l'amore? L'amore è molto di più. Oppure la definizione di confusione, questa è bella. Distribuzione di fiorimenti in maniera errata. No! No! No, la confusione è molto di più. La verità è che noi siamo inutili e lontani dalla realtà, come le pagine di questo volume. Ecco qual è la verità, hai capito? Ma come fatti vivo a un vivo? Ma che sentito? Ma ci vuole un po' di Prova a fare l'eco, prova a fare la voce con l'eco. Dai, come ti ho detto prima, dai. Sono un verificatore! Bellissimo, bellissimo. Allora, quello con gli occhialetti e i capelli rossi, dentro, bravo! Quello me lo distrugge! Nessuno, uno, forse ero io. Omar però era un bugiardo vero, un bugiardo morboso, uno che diceva bugie inutili. Omar, Dio c'è? Sì. Come sì? Tranquillo, tranquillo. È buono? Dio è buono. Ma è diventato sordo, Dio. Sì. Troppe preghiere, troppa gente che lo molesta, che non c'entra niente. Signore, ti prego per questo, per quell'altro. Che va più, è sordo ormai, è sordo. Sa, chi te l'ha detto? Ma che ne sai? Io personalmente l'ho incontrato. Addio, sento, Omar! Me l'ho trovato davanti così, all'improvviso. Stanchissimo. Ma dai. Bastone, anzianissimo, barba bianca. Nah. Bellissimo. Io sono venuto insieme con la stronza, ragazzi, che l'ho venuto. Bellissimo. Senti, Omar, mi togli una curiosità. Tu nella vita chi è? Che facevi nella vita, Omar? Ero un musicista. Ho giocato in Serie A. Tu non hai mai guidato un tram? No. Io sì. Ho fatto un paio di truffe. Una volta ho spaccato la testa un leone con questa mano. Ero onestissimo, me ne avrei stato 6 o 7 volte. C'è una cosa che ho sempre odiato nella vita. La musica. Beh, certo. Musicista. Musicista che odio. Sei bravo, sei. Bravissimo. Bravo, bravo. Oh! Ma qua ci sono dei contatti. Hai visto? Io se mi ci metto questo ve l'accendo. Hai fatto l'elettricista. Ma che c'è? Si legge in faccia. No, ma da sé. Ha detto io ero elettricista. Ma odiavo Dio. Ma queste carte napoletane, in caso c'è un senso dietro. Ma se ci sono le carte napoletane significa semplicemente... Ma gioco, vai, dai, gioco, dai, gioco, dai. Capisci, Beppe? È questo, è questo. No. Tu sei stato troppo attizzato, per questo non ti piacciono i tramonti. Mi capisco. C'entra i traumi con il fatto che non mi piacciono i tramonti. Beppe, se a te non ti piacciono i tramonti è perché probabilmente da piccolo sei stato traumatizzato, quindi probabilmente qualcuno, non so, tuo padre o non lo so, qualcuno ti faceva del male, capito? Quindi tu associavi questa cosa del tramonto. Sì, allora ogni volta che appariva il tramonto da piccolo sulla carrozzella gli volevi dare un pizzo. No, a me se una cosa non piace, non mi piace perché non mi piace, non perché ho avuto dei traumi da piccolo o perché mi sono lì. No, questa sera si mangia. Cosa? Sì, sì, si mangia. Ma perché hai fame, Nino? Caraella, l'appetito viene mangiato, no? Dai, abbiamo delle cosette buone, abbiamo crusca buonissima, c'è dell'olio ottimo, sale ce n'è proprio, aiosa. Che cazzo è l'aiosa? Lascia compagnia la schietta. E abbiamo anche il vino. Vino, vino, vino. Il vino l'ho bevuto io e come l'acqua non fa niente. Ma non importa, non è il concetto che è giusto. Noi stasera mangiamo, si mangia. Credi, mo' si mangia. Dai, qui. Tutti a tavola! Baldracca. anni avreste compiuto? 32. Sei contento? Sì. Io ti devo fare una piccola confessione. Io non dico sempre la verità. Scusami tanto. No, scusami. Non ti scusare. No. Perché della vita io mi ricordo pochissimo. Perciò ogni tanto invento. C'è qualcosa che mi ricordo quella della vita? Delle immagini. Degli odori. Il prato appena posato. Bello. Sì, bellissimo. Però è terribile non ricordarsi quasi niente della vita. È come non aver vissuto mai. Non è mica giusto. Io forse manco mi chiamavo Omar. Senti, Omar, tu che ne pensi di Anna? Ganda? È anche buona. Buonanotte, Omar. Buonanotte. Il tuo affetto lo temo un po'. Ma io ti vorrò bene per sempre, no? Lo vedo, lo vedi? Dai, pronti, pronti, dai, comincia, dai. Ma qual è il titolo di questo spettacolo? Qual è? Il grande burattinaio. Atto primo, scena prima. Silenzio! Siamo arrivati per annunciarvi l'arrivo del grande burattinaio! Sì, sì, sì, che siamo arrivati! Del grande, enorme burattinaio! Sì che ci sarete, sì sì che ci sarete! Oh! Odo dei passi! Odo! Il passo sicuro e felpato del grande, enorme, oscuro burattinaio! Yorkshire. aperti. Io non so più perché continuo a fare queste sedute di autoscienza. Ormai non prendono più. Allora, non hanno più senso. No, adesso senti. So che Omar ha una piccola sorpresa per il settore. Non mi ha detto cos'è, ma pare che sia fantastico. Omar, ti do la parola. Vai, Omar. Allora, questa sera, dopo cena, ci sarà una fantastica tombolata! Il primo premio è un segno, ma è personalizzato, l'ho costruito io. La tombola, una delle tradizioni in assoluto più tristi di quella che è stata la mia esistenza. Io ci ho pensato, siamo ridicoli, stiamo rifacendo quello che facevamo di là. È semplicemente idiota, non siamo qui per questo. Non ne abbiamo parlato. Se Nino ha trovato Omar laggiù nella quetta, vuol dire che c'è qualcosa. E noi non possiamo rimanere qui a far finta di nulla. Bisogna andare a vedere cosa succede. Ma come cosa succede? Te l'ho detto, Nino, non c'è nulla, non c'è solo acqua. Quetta fino a qua, non c'è niente, non c'è niente. Ma non importa. Qui non si può più stare. Noi stasera ce ne andiamo. Domani